Radio Doc, in collaborazione con History Channel. Mancano poche ore alla fine del 2008 e questa sera, in questa puntata di Radio Doc, vi proponiamo di giocare di fantasia sul futuro. Immaginate che, di punto in bianco, l'uomo sparisca dalla faccia della Terra. Nessun cataclisma, nessuna guerra nucleare, semplicemente, da un giorno con l'altro, non ci siamo più. Ma tutto il resto è rimasto in perfetta efficienza. Le nostre auto parcheggiate sotto casa, i frigoriferi accesi, la corrente elettrica, i cani nei cortili e negli appartamenti. Manchiamo solo noi. Non siamo eterni. Ma neanche le testimonianze della nostra società sono eterne. Pensiamo agli Egizi, ai Sumeri, a tutti i popoli prima di Cristo. Grandi civiltà di cui, a distanza di pochi secoli, non abbiamo quasi più tracce. Quanto tempo passerà prima che anche le nostre tracce spariscano dalla faccia della Terra? Quanto resisterà la nostra casa prima di crollare a causa del tempo che passa? E la nostra auto? E i nostri libri? E alla fine, resterà qualcosa di noi? La Terra senza l'uomo è il titolo di questo radiodocumentario in collaborazione con History Channel. L'essere umano non abita più la Terra, ma il mondo non si è fermato e le cose, senza di noi, cambiano. A poche ore dalla nostra scomparsa, nel mondo le luci iniziano a spegnersi. A mano che le centrali elettriche si spengono, le interruzioni di corrente provocano una serie di guasti a catena. Dopo qualche settimana il pianeta sprofonda nell'oscurità. Un buio totale che non sperimenta più da quando l'uomo scoprì il fuoco. In un mondo dove l'elettricità è sempre di meno, altri sistemi cominciano a fermarsi. Le città principali sono collegate da una complessa rete di tunnel sotterranei. I tunnel hanno funzioni di drenaggio e di cablaggio e nelle città più grandi vengono usati anche per il trasporto. Molti di questi tunnel sono al di sotto del livello del mare e per evitare che si allaghino serve un sistema di pompe che viene azionato quando necessario per aspirare l'acqua. Se non ci fossero più uomini, nessuno azionerebbe le pompe e la metropolitana di New York si allagherebbe in circa 36 ore. Intanto, in superficie, il cibo marcisce sugli scaffali dei supermercati. I frigoriferi casalinghi diventano semplici contenitori per cibo in decomposizione. A 6 mesi dalla scomparsa dell'uomo dalla Terra, le aree urbane iniziano a trasformarsi in luoghi selvaggi. I predatori tornerebbero velocemente in assenza dell'uomo. Siamo stati noi a dargli la caccia e a creare delle condizioni per loro sfavorevoli. Siamo andati nel loro territorio apposta per stanarli, ma tornerebbero in fretta. I predatori più piccoli, come i coyote e le linci, vivono da sempre nei pressi degli insediamenti umani. Queste specie sono le prime a colonizzare i nostri quartieri abbandonati. I carnivori più grossi devono aspettare di più. Occorre del tempo per ricreare l'habitat necessario a soddisfare il loro appetito. Ma non passerà molto prima che si spingano a cacciare in quelli che una volta erano i nostri cortili. A 1 anno dalla scomparsa dell'uomo, i villaggi e le città sono ancora riconoscibili. Ma la natura comincia a reclamare i suoi spazi. Una delle conseguenze più evidenti in assenza dell'uomo sarebbe la trasformazione delle superfici incolte, delle aree di parcheggio e delle strade che verrebbero invase da piante selvatiche. I semi restano incastrati nelle crepe dei muri e qui germogliano. Le piante sono straordinarie da questo punto di vista. Possono distruggere tutto nel giro di pochi anni. Senza l'uomo che le elimina, le piante infestanti, come il dente di leone, iniziano a crescere in ogni crepa delle strade. Quando muoiono, i loro resti si uniscono agli onnipresenti muschi e licheni, creando un nuovo strato di terreno. Senza il controllo umano, le forze della natura rivendicano la supremazia sulla Terra. Gli incendi naturali che un tempo l'uomo riusciva a tenere a bada infuriano ormai indisturbati. Gli edifici abbandonati, le erbacce, i detriti nelle città e nei quartieri non fanno altro che alimentare le fiamme. Roma brucia di nuovo. Sono trascorsi 25 anni da quando l'uomo è scomparso. In campagna la natura sta cancellando ogni traccia della presenza umana. Nelle periferie, branchi di cani randagi si aggirano per i quartieri abbandonati, alla ricerca del loro prossimo pasto. In alcune grandi città, l'acqua rappresenta un grosso problema. Al tempo degli umani, Londra era protetta dalle alte maree da 10 porte retrattili di acciaio che venivano alzate durante le tempeste per isolare il Tamigi dal mare del nord. Ma senza uomini ad azionare le barriere, Londra non ha difese. C'è un'altra città che corre lo stesso rischio, Amsterdam. Il decadimento non deriva solo dalle forze della natura che assediano le nostre costruzioni. Il fatto è che nulla è eterno e quindi senza manutenzione. Anche gli oggetti frutto dell'opera dell'uomo sono destinati al disfacimento. Un processo che colpisce ogni cosa, anche le superfici esterne dei grattacieli, che oggi ci appaiono indistruttibili. Dopo 25 anni di esposizione all'umidità e al calore, senza alcuna manutenzione, il sigillante per finestre, che di solito è flessibile, è diventato rigido. Ora il vetro è un tutt'uno con la cornice. Con l'espandersi e il contrarsi della struttura di metallo, a causa dei cambiamenti di temperatura, il vetro, non altrettanto elastico, finisce per rompersi e cadere sul marciapiede sottostante. Dopo che alcune finestre di un edificio cadono a terra, gli effetti della pressione del vento diventano drammatici. Lo stesso vale per la pressione che agisce dall'esterno. In più, l'aspirazione che si crea aggrava il problema, provocando la caduta di altre finestre. L'edificio si riempie così dei detriti spinti dal vento in queste aperture. Arriva un temporale estivo. Sul tetto del palazzo, il parafulmine di rame che un tempo proteggeva le migliaia di lavoratori degli uffici si è corroso ed è quindi inutile. Un lampo trasforma il grattacielo in un vero inferno. L'uomo è scomparso da 40 anni. Mentre le strutture costruite in acciaio e cemento resistono, le abitazioni delle periferie iniziano a cedere. Quasi il 90% delle case americane ha la struttura in legno. Senza le vernici e i trattamenti, il legno delle case è infestato dalle termiti. E nella loro avanzata distruttiva, le termiti non sono sole. La decomposizione inizia quando il legno è esposto agli agenti atmosferici. In pratica, i microbi attaccano il legno e rilasciano nell'atmosfera biossido di carbonio e metano. Senza gli uomini, in una decina di anni la maggior parte degli edifici costruiti in legno crollerebbe. Di fronte al doppio attacco delle termiti e della decomposizione, le travi che sostengono il tetto cedono. Le sostanze come la malta e la roccia dureranno più a lungo, ma comunque si sgretoleranno a causa dei naturali processi chimici e degli agenti atmosferici. Quindi crollerà tutto senza lasciare traccia. Tutto quello che è stato progettato dall'uomo contiene in sé il seme della propria distruzione, ponti e palazzi compresi. Il ponte di Brooklyn è uno dei più famosi al mondo, da oltre 125 anni. Il motivo per cui resiste così tanto è che è costantemente controllato dagli ingegneri, viene ispezionato regolarmente, sottoposto a manutenzione, colorato, gli vengono sostituiti i pezzi da cambiare. Senza l'uomo il processo di deterioramento sarebbe molto più rapido. Le parti più vulnerabili dei ponti sospesi sono i tiranti in acciaio. Per quanto siano resistenti, i tiranti hanno un difetto fondamentale: il materiale con cui sono fatti. L'acciaio è un minerale che si trova in natura, costituito per il 95,98% da ferro. Esposto all'umidità, il ferro si ritrasforma nel minerale presente in natura. È il processo che viene chiamato corrosione e si innesca ogni volta che l'acciaio è esposto all'umidità. Il nemico principale dell'acciaio è la corrosione. Per questo bisogna tenerlo lontano dall'acqua. E quindi serve manutenzione. Se non è controllato, si corrode. I cavi comincerebbero ad arrugginire e la vernice a scrostarsi. E dopo essersi arrugginiti, i cavi si spezzerebbero e a quel punto il ponte crollerebbe. Da 75 anni l'uomo non è più su questa terra. Dei 600 milioni di automobili che un tempo l'uomo utilizzava per spostarsi lungo le strade del mondo, resta soltanto un cumulo di ferraglia arrugginita. Gli pneumatici si sgonfiano nel giro di pochi anni, mentre la gomma e i materiali sintetici di cui sono fatti restano intatti per secoli. La vernice si rovina in fretta e una volta scrostata, la ruggine corrode la carrozzeria della macchina a una velocità di un decimo di millimetro l'anno. 75 anni dopo l'uomo, anche le auto che si trovano in ambienti meno ostili sono ridotte a semplici scheletri. Dopo 100 anni, delle macchine e degli esseri umani, resta soltanto un mucchio di lamiere. Il ponte di Brooklyn, che ha servito l'uomo per oltre 125 anni, non riesce a superare il secolo senza di lui. I tiranti cedono, il ponte e le ringhiere iniziano a deformarsi e a oscillare. Il ponte si sgancia e crolla nell'East River. Se alcune delle più grandi strutture artificiali sono già crollate dopo soli 100 anni, ci sono speranze che la nostra civiltà lasci un segno indelebile quando non ci saremo più. Sono trascorsi 100 anni dall'incruenta scomparsa dell'uomo dalla Terra ed è bastato un secolo per far crollare quasi tutti i manufatti più simbolici della cultura del XXI secolo, il ponte di Brooklyn, ma anche le automobili, le strade, le nostre città. 100 anni e quasi non c'è già più traccia dell'uomo sulla Terra. Anche i nostri depositi di cultura, cioè i libri e qualsiasi altro supporto che abitualmente usiamo per non dimenticare, stanno per scomparire. E con loro, quello che abbiamo scritto. Conservate nelle condizioni ideali, si stima che la carta e la pellicola resistano dai 2 ai 300 anni. Ma è sufficiente esporle agli agenti atmosferici di un ambiente non controllato per dimezzarne la durata. Neanche i supporti digitali dureranno per sempre. Le stime di vita di CD e DVD vanno da qualche decina d'anni a qualche secolo in condizioni ideali. È abbastanza ironico il fatto che, nonostante la nostra tecnologia, non abbiamo ancora trovato niente di così duraturo come le tavolette di argilla o gli strumenti di pietra. ...150 anni dopo la scomparsa dell'uomo, la vita nelle città è sempre più animata. Le piante rampicanti sono cresciute ai lati dei grattacieli abbandonati, adattandosi a trarre nutrimento dall'acqua piovana che si raccoglie nelle crepe e sui davanzali. I rampicanti arrivano dappertutto con i loro rami. Sarebbe bello se producessero frutta o qualcosa di commestibile. Una pianta con della frutta costituirebbe una fonte di energia per gli animali. A quel punto si formerebbe un ecosistema in verticale. Gli uccelli vi andrebbero a nidificare e dietro a loro arriverebbero anche i predatori. In questo ecosistema verticale, gli insetti e gli animali più piccoli non sono soli. Ci sono anche i gatti. Subito dopo la scomparsa dell'uomo, I gatti hanno sostituito la loro dieta con topolini di campagna e uccelli. Cacciare all'aperto è faticoso. Ma nei piani alti le prede sono più facili da catturare, trovando nell'ecosistema verticale tutto quello che serve loro per sopravvivere. I gatti non hanno necessità di scendere a terra. Sono i sovrani incontrastati di una nuova catena alimentare che si sviluppa in altezza e si godono indisturbati il magnifico panorama della nuova città. Mentre i gatti hanno fatto un grosso salto in avanti, molti cani sono regrediti allo stadio dei loro antenati. Quelli che si sono incrociati con i lupi ora girano in branchi per cacciare prede più grandi. 150 anni dopo l'uomo, gli oceani brulicano di vita. Le creature marine hanno accolto con gioia la scomparsa dell'uomo. Abbiamo sempre trattato il mare in due modi diversi, come una dispensa e come una discarica. Negli anni siamo diventati sempre più bravi a provocare danni al mare. Senza gli uomini che pescano e inquinano, il mare finalmente vive una straordinaria ripresa. Se l'uomo dovesse scomparire dalla faccia della terra, l'oceano tornerebbe a fiorire. Duecento anni dopo l'uomo. Da New York a Chicago, da Seattle a Parigi, le nostre icone di ferro e acciaio stanno per crollare. Pur resistendo di più rispetto ai grandiosi ponti sospesi americani, la Torre Eiffel non è invincibile. Al tempo degli umani, la sua struttura in ferro doveva essere ridipinta ogni 7 anni per non cedere alla corrosione. È un'icona, ma questo non la protegge dalla corrosione. Se nel tempo la struttura non viene sottoposta a regolare manutenzione, si danneggerà finché non cadrà. L'arco di tempo tra i 100 e i 300 anni dopo la scomparsa dell'uomo sarà l'era dei grandi crolli. A Seattle, lo Space Needle è stato progettato per oscillare di 2,5 cm ogni 15 km orari di vento. Ma con l'acciaio che inizia a corrodersi, basta un vento poco più forte di una brezza per cancellare dallo skyline il simbolo della Fiera Mondiale del 1962. Quando l'uomo è scomparso, il livello del mare stava già salendo. A Manhattan, nel corso dei secoli, il suolo saturo su cui poggiano le fondamenta di calcestruzzo dell'Empire State Building ha provocato un'inclinazione del grattacielo. Una volta che un edificio devia dalla sua verticale, la pressione dovuta alla gravità accentua le forze che agiscono sulla sua base. Comunque è difficile che un grattacielo cada a terra come un albero in una foresta. Una volta che inizia a pendere da una parte, la forza di gravità potrebbe far sì che la parte superiore dell'edificio crolli su se stessa. Anche la città di Chicago, dove sono nati i grattacieli, comincia a dare segni di cedimento. La Sears Tower, la struttura più alta realizzata dall'uomo nel Nord America, ha raggiunto la fine del suo regno. I primi 500 anni dopo l'uomo sono un'era segnata dalla rovina e dalla distruzione. Le strutture di cemento sono quelle che resistono di più. Gli antichi romani hanno inventato il cemento. E alcune delle loro strutture sono rimaste intatte per oltre 2000 anni. Ma il cemento moderno non è altrettanto resistente. Contiene più acqua e viene pressato meno accuratamente, il che comporta la formazione di molte più sacche d'aria e crepe. Inoltre, le moderne strutture di cemento hanno anche un altro difetto fondamentale. Le strutture di cemento armato poggiano su una maglia di sbarre di rinforzo d'acciaio. Non si corrodono perché il cemento mantiene un ambiente alcalino attorno a loro. Ma quando col tempo l'alcalinità si abbassa, l'acciaio inizia a corrodersi. Quando le sbarre d'acciaio arrugginiscono, il loro volume aumenta di 3 volte, creando una pressione verso l'esterno tale da sgretolare il cemento. In generale, dopo 50 anni comincerebbero a vedersi delle crepe superficiali nel cemento, dopo 100 anni cadrebbero pezzi interi di cemento e dopo 500 anni la maggior parte delle strutture in cemento armato sarebbe distrutta. A 1000 anni dalla scomparsa dell'uomo non ci sarebbe quasi più traccia degli edifici e ancora meno delle attività dell'uomo. Vedremmo solo una fitta giungla. 10.000 anni dalla scomparsa dell'uomo. È possibile che dopo appena 10 millenni l'umanità sia svanita senza lasciare alcuna traccia? Gli scienziati hanno predetto che la nostra storia e la nostra cultura sopravvivranno grazie alle onde radio che si propagano nello spazio verso l'infinito. Prima o poi potrebbero essere captate da altre specie intelligenti che vivono su un pianeta lontano. Alcuni sono convinti che ci siano delle onde radio che dalla Terra si espandano nello spazio e che gridino all'universo: siamo qui e questa è la nostra cultura. Purtroppo, degli studi recenti condotti dal SETI, il gruppo di ricerca di forme di vita intelligenti extraterrestri, hanno dimostrato che le onde radio si trasformano in rumore nel giro di 1 o 2 anni luce. Se fosse vero, i nostri segnali non arriverebbero nemmeno alla prima stella dopo il Sole. Allora cosa resterà a 10.000 anni dalla scomparsa dell'uomo che potrà raccontare la storia delle grandiose civiltà che un tempo avevano abitato il pianeta? Il ferro arrugginisce, il cemento si sgretola, il legno e la carta si decompongono. Eppure resta ancora qualcosa di quello che l'uomo ha costruito. Ma ci sono alcune eccezioni. Per me una di queste è il Monte Rushmore. Il complesso scultoreo è in granito e si trova in un posto ecologicamente stabile. Il suo unico nemico sono le gocce di pioggia spinte dal vento. Credo che il Monte Rushmore resisterà per 100.000 anni, forse 200.000. Se i 4 miliardi e mezzo di anni della Terra potessero essere considerati in 24 ore, 10.000 anni si ridurrebbero solo a una frazione di secondo. E il tempo in cui l'uomo è vissuto sul pianeta durerebbe circa 30 secondi. Come un villaggio abbandonato, la Terra continuerà a vivere senza di noi. La vita esisteva prima dell'uomo e continuerà a esistere dopo l'uomo. Se i 4 miliardi e mezzo di anni della Terra potessero essere considerati in 24 ore, 10.000 anni si ridurrebbero a una frazione di secondo e il tempo in cui l'uomo è vissuto fino ad ora sul pianeta durerebbe circa 30 secondi. Come un villaggio abbandonato, la Terra continuerà ad esistere senza di noi. La vita esisteva prima dell'uomo e continuerà ad esistere anche dopo l'uomo. Radio Doc vi augura un buon fine 2008.